Insieme a voi vorrei riprendere questo Vangelo sottolineando e gustando alcune poche parole. Il Signore Gesù salì sul monte, lo commenteremo un'altra volta cos'era il monte per Gesù. Chiamò, vocazione vuol dire chiamare, a sé quelli che voleva. Interessante, eh? Uno non fa l'apostolo, non fa il prete di testa sua, se il vescovo non lo chiama. Uno può così andare dal vescovo a dire io voglio diventare prete. Se il vescovo non lo accoglie, non sarà mai prete, perché è Dio che chiama. Ed essi andarono da lui. Ne costituì, anche il verbo importante, costituire vuol dire stabilire. Li chiamò apostoli, cioè mandati, e poi dice tre parole che io vorrei commentarvi, perché stessero con lui, primo, secondo, per mandarli a predicare, terzo, con il potere di scacciare i demoni. Ecco chi dovrebbe essere l'apostolo, il sacerdote, perché stessero con lui. Questo è bello, non si diventa apostoli se non ci si innamora di Gesù, e ci si innamora con Gesù stando in compagnia con lui. Perché stessero con lui? Secondo compito, dopo che sono stati con lui, dopo che hanno assimilato la sua persona, la predicano. Quindi un sacerdote deve predicare solo quello che lui ha acquisito di Gesù. Io uso un termine che ormai, insomma, voi conoscete, vi do il mio latte. Dopo che io ho mangiato, mi sono nutrito di Gesù, vi allatto. Non vi sembri un termine banale, questo non l'ho inventato io, questo l'ha inventato San Bernardo di Chiaravalle, il quale diceva ai suoi monaci, vi do il mio latte. E terzo, per scacciare i demoni. È veramente stranissimo come tanti sacerdoti non leggano il Vangelo. Per scacciare i demoni. Vuol dire che i demoni ci sono se Gesù li scaccia. Dunque, questo vale per me, vale per Don Claudio, vale per Don Fabio, vale per tutti i sacerdoti. Ma questo in parte condivisa vale anche per voi cristiani. Il Concilio ci ha già detto chiaramente che esiste il sacerdozio ministeriale, sacerdozio di servizio, quello di noi presbiteri, sacerdoti. E il sacerdozio regale o battesimale, e quindi anche il vostro, se siete battezzati, avete in qualche modo anche voi questi tre compiti che io ripeto per voi. Anche voi battezzati dovete stare con il Signore, non alla maniera del monaco, alla maniera del sacerdote. Voi avete una famiglia, avete un lavoro, avete dei compiti. Allora bisogna proprio imparare a stare in compagnia col Signore tutto il giorno. Io lo paragono a due sposi che si salutano al mattino con un bacio che vale per tutto il giorno. Poi fanno la loro vita, sì, però non si esce di casa senza quel bacio. Ti amo. Ecco, uno sta col Signore, anche noi al mattino, anche voi, le vostre preghiere, Signore, voglio stare con te tutto il giorno. Secondo, per mandarli a predicare. Ecco, voi più che predicare, vi direi a testimoniare. Lasciate predicare i preti. Se un laico predica, o è un santo, o altrimenti la gente si stanca. E poi stanno anche male certi predicatori così in giro. Testimoniare vale sempre. Un laico che testimonia Gesù, dopo che è stato in compagnia con Gesù, a sua volta gli date il latte al mondo, voi, la vostra personalità, la vostra testimonianza. E terzo, dovete anche voi scacciare i demoni? In un certo qual modo sì, perché se dite non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male, quel male lì, guardate che è il maligno, Quindi tutte le volte che dite un Padre nostro, anche voi scacciate il maligno da voi. E poi, l'ho detto e lo ripeto, un papà e una mamma hanno il potere, ricevuto direttamente da Dio, di comandare al maligno che ritengono dia fastidio a un proprio figlio, a una propria figlia, di comandare. Pensate, cari genitori, che potere avete. Ve lo dà Dio, perché siete inseriti nei comandamenti, onore il padre e la madre. E quindi io vi auguro che i vostri figli siano santi come voi, però se ritenete che vostro figlio è un po' disturbato, voi mettetevi davanti al Signore e gli dite: Signore, come papà e come mamma tu mi hai dato il potere di scacciare da mio figlio o da mia figlia questa che io ritengo una presenza maligna. Non vedete il maligno dappertutto, però potete anche avere questo potere. Un papà e una mamma sui propri figli ricevono da Dio questo potere.